Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, intanto grazie per essere in nostra compagnia. Oggi iniziamo da una parola che è diventata quasi di moda e oggi sarà questa parola a far da cornice per il percorso che voglio proporvi nella trasmissione odierna. Autostima. I nostri nonni forse nemmeno sapevano che cosa fosse, i nostri genitori ne hanno cominciato a sentire parlare, noi ne siamo diventati consapevoli e per i nostri figli nutriamo nei suoi confronti una sorta di vera e propria ossessione. Allora, che consapevolezza avete della vostra autostima? Che conoscenza avete dei vostri punti di forza e dei vostri limiti? Tutto cominciò il 1° gennaio del mio 32esimo anno da single. Ancora una volta mi ritrovavo tutta sola all'annuale buffet freddo di mia madre a base di tacchino al curry. Ogni anno prova ad appiopparmi un noiosone di mezza età con i capelli a cespuglio e io temevo che questa volta non avrebbe fatto eccezione. Te lo ricordi, Mark? Una volta giocavi nella sua piscinetta e un avvocato se la passa molto bene. No, non me lo ricordo neanche un po'. A quanto pare divorziato. Sua moglie è una giapponese, razza molto crudele. Allora, che cosa pensi di metterti? Questo. Non fare la sciocca, Bridget. Non troverai mai un uomo se ti vesti come una appena scappata da Auschwitz. Adesso fila di sopra. Ti ho messo una cosa carina sul letto. Allora, cari amici, questa è la sfida che vi lancio insieme agli ospiti di oggi. Inizio a presentarvi subito il primo, che è di casa, Essere Benessere, il nostro esperto di relazioni interpersonali, Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta. Alberto ha appena pubblicato per Edizioni San Paolo QAF, quoziente autostima familiare. Ciao Alberto, grazie e benvenuto, ottima idea. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. 800 24 0024, questo è il numero verde. Ringrazio subito Roberto Scaltriti in regia alla parte tecnica e Claudia Ricifari in redazione, perché poi nel corso della trasmissione si scappa, invece noi andiamo in onda proprio grazie a loro. Allora Alberto, avremo nel corso del programma l'intervento di molti ospiti, tra cui possiamo preannunciare anche l'arrivo di Noemi, la bravissima cantautrice di cui è da qualche mese in circolazione il CD Rosso Noemi, ma vedremo anche quanto è alto, no, il suo livello di autostima. Ma perché è così importante nella nostra vita? Prima non ci pensavamo quasi. Sì, direi che questa è proprio una sorta di scoperta che la psicologia ha fatto soprattutto negli ultimi 30 anni e tra l'altro è stato proprio il movimento femminista che ha introdotto in modo massiccio il termine, dicendo che gran parte a quello che succedeva nel percorso personale proprio delle donne era legato al fatto che molti condizionamenti familiari, sociali e culturali in qualche modo inibivano lo sviluppo di un buon modello di autostima personale. In generale direi che l'autostima è veramente un po' come le fondamenta di una casa, sono pilastri su cui noi costruiamo la nostra esperienza di vita, la nostra esistenza, è una variabile, una dimensione del nostro esistere che condiziona in modo potente non quanti soldi avremo in tasca, non il successo professionale, perché si può essere di gran successo professionale avendo in realtà poca autostima, ma in realtà è qualcosa che noi riusciamo a raccontare a noi stessi di noi stessi avendo addosso il giusto paio di occhiali con cui guardarci, quindi una consapevolezza reale e profonda dei nostri punti di forza e dei nostri punti di debolezza. Se noi ci conosciamo bene, il famoso conosci te stesso, poi riusciamo in qualche modo a trovare la strada. Esatto. Senti Alberto, potrebbe essere il motto dell'autostima è se non mi piaccio non piacerò nemmeno agli altri? Ma sì, direi che è proprio un po' lo specchio interno con cui noi guardiamo noi stessi e quindi poi ci proponiamo agli altri. E tra l'altro, di nuovo, la ricerca scientifica negli ultimi 20 anni è riuscita a porre una correlazione molto stretta, per esempio, tra autostima e molti problemi anche in termini di salute e benessere psicologico negli adolescenti. Per esempio, si vede che più basso il tuo livello di autostima e più alta è la probabilità che tu entri in comportamenti a rischio quali tabacco, alcol, uso di droghe, disturbi del comportamento alimentare. Quindi di per sé è proprio un carburante di cui è bene avere pieno il serbatoio per fare un buon ingresso nel percorso che ci conduce poi verso l'adultità. Ma tu oggi riuscirai a farci fare un corso accelerato di autostima? Ma io credo che insieme potremmo in qualche modo costruire alcune idee da mettere in atto subito, immediatamente. Tra l'altro proprio il libro QAF di cui parli è un libro molto pratico, cioè partendo dall'idea che è importantissimo coltivare e modellare il modello di autostima personale, entra poi in un'altra dimensione. Per la prima volta raccontato in un libro, esiste anche un'autostima del nucleo familiare, ed è possibile, facendo cose insieme, che i bambini aumentino l'autostima di mamma e papà, quindi il loro modo di vedersi genitori efficaci, e allo stesso tempo, come è logico, mamma e papà, facendo cose con i bambini, possono aiutare i loro figli a modellare, potenziare il loro modello di autostima personale. La domanda di oggi è quindi: quanto la nostra autostima ha influito sulla nostra vita, quale aree della nostra vita ne sono state influenzate ed eventualmente quali correzioni in corso d'opera potremmo promuovere, così da trasformare un inizio che magari si è rivelato particolarmente difficoltoso in un percorso più semplice, pianeggiante. Scriveteci, chiamateci, perché la San Paolo Edizioni mette a disposizione 3 copie del libro QAF, Quoziente Autostima Familiare, che Alberto Pellai sceglierà per far recapitare a casa a 3 di voi, che potranno naturalmente chiamarci all'800 24 00 24. E Alberto, questo libro si basa tra l'altro proprio sull'analisi delle 6 dimensioni di cui è fatta la nostra autostima. Io le ho imparate dal tuo libro e non ci avrei mai pensato. In realtà è proprio un modello multidimensionale dell'autostima, ben conosciuto in letteratura, che è stato elaborato da Bracken, e un po' ve le raccontiamo queste sei dimensioni. Magari prendete carta e penna, perché è proprio intorno ad ognuna di esse che voi avete modellato poi la vostra autostima personale. E i 6 aspetti che, come tessere di un puzzle, costruiscono poi il quadro della vostra autostima personale sono il rapporto che avete con il vostro corpo, il rapporto che avete con i vostri familiari, sia i familiari della vicini, famiglia che avete generato, sia dei familiari della famiglia che vi ha generato, la qualità del rapporto che avete nelle relazioni interpersonali con gli altri colleghi di lavoro, avete un amico del cuore, come vi muovete nel vostro gruppo di amici, il successo che avete concretamente nella vostra vita professionale o scolastica, la competenza emotiva, cioè date valore al vostro sentire emotivo, riconoscete le vostre emozioni, le rendete valide, non le negate. E ultimo è quanto vi sentite reali, protagonisti della vostra vita, cioè la vita è qualcosa che state subendo in questo momento, che vi travolge, di cui siete in balia, oppure sentite di avere una buona dose di controllo su di essa? E direi che su molte di queste dimensioni lavora tutte le settimane, per noi donne non solo, un settimanale di straordinaria popolarità e grande diffusione che proprio in questi giorni arriva in edicola con un restyling a misura di noi donne e della nostra autostima. Saluto la direttrice di Donna Moderna, Cipriana Dall'Orto. Cipriana, buongiorno. Ciao, buongiorno, che piacere. Senti Cipriana, in questi giorni si è molto letto del restyling della rivista che dirigi e soprattutto di un'idea rivoluzionaria sulle donne da copertina che io caldeggio da anni. Guarda, non solo la copertina, l'idea davvero rivoluzionaria, soprattutto perché riguarda un mondo molto conformista come quello della moda, del beauty, eccetera, è quello di usare non più modelle e quindi così pose artificiose, ragazze un po' irraggiungibili, così, ma di utilizzare per i servizi di moda e di bellezza, e poi anche all'interno del giornale e in altre parti, solo donne vere. Donne vere, donne che fanno la nostra vita, che possono essere alte, basse, magre, più cicciotte, dal nord e del sud, quindicenni come sessantenni, insomma, e le donne come noi. Ce ne sono tante belle, piacevoli, senza avere i canoni estetici appunto ormai codificati delle modelle, che sono tutte alte, magre, filiformi. Sì, anche un po' ritoccatine, no? Il Photoshop funziona anche per loro, o no? Sì, però le modelle più che altro ormai sono veramente standardizzate. Sono carine, sono tutte un po' con la stessa corporatura. Invece noi inauguriamo questa nuova stagione che riflette, secondo noi, una crescente autostima delle donne. Ho ascoltato il discorso, sicuramente l'influenza familiare è, non dico fondamentale, primaria, sì, perché sono i genitori i primi a stimolare o a deprimere l'autostima del bambino. E poi ci sono gli ostacoli sociali, eccetera. Ma sulle donne da sempre grava un deprimente dell'autostima, cioè la cultura che dice che la donna comunque non deve fare certe cose, se le fa non le fa bene, non le fa bene, o deve rinunciarne ad altre. Esatto. Allora, invece noi stiamo notando un nuovo orgoglio femminile, cioè le generazioni che stanno arrivando adesso sono di donne preparate che sono entrate anche nei ruoli maschili senza difficoltà, anzi con grande merito. Non hanno la zavorra di tutta la rabbia che ci portavamo noi, loro mamme, loro nonna, no? E hanno un'autostima che non è presunzione, è semplicemente consapevolezza delle proprie capacità. Allora, in omaggio anche a queste donne orgogliose di essere donne, cioè non vogliono diventare uomini, vogliono restare donne con le loro emozioni, con le loro competenze emotive, come diceva il professore, ma vogliono anche potersi realizzare. In omaggio a queste donne noi inauguriamo questa nuova stagione, le donne vere nei servizi e in copertina. Mi piace. Molto. Io guarda da anni... che ho aperto il casting, ti puoi iscrivere. Allora sì, mi iscriverò, grazie. Raccomandami però, perché mi raccomando. Cipriana Dall'Orto è stata con noi, un abbraccio, ti lasciamo lavorare, grazie. Comprate il giornale così vedete come si fa a far parte del casting. E allora, ciao e grazie mille. Sicuramente, grandi casting. Allora, grazie alle parole di Cipriana, voi continuate a chiamarci, a scrivere per rispondere alla domanda: qual è il vostro punto di forza e qual è il vostro punto o i vostri punti? Perché a volte ce n'è più di uno, di debolezza, e soprattutto come riuscite a realizzare un mix di risorse e vincoli della vostra vita per poter vivere un'esistenza, direi, consapevole, Alberto, perché l'autostima è anche consapevolezza. Certo, cioè il problema è proprio che se uno non vede i suoi limiti e punta solo sulle sue forze, alla fine sembrerà pieno di autostima, ma in realtà l'immagine che restituisce di sé agli altri è proprio parziale e conseguentemente non va molto lontano. Vorrei salutare Gioele, che ci chiama da Cremona, all'800 24 00 24. Gioele, buongiorno. Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. E stamattina direi una puntata veramente che mi tocca il cuore, perché io, diciamo, la mia professione è quella di violoncellista e in più sono anche insegnante in alcune scuole, quindi l'autostima, mi sono accorto che intanto, beh, se fai il musicista è una condizione necessaria per salire sul palcoscenico e, dico così, sopravvivere. Certo. Perché ovviamente sì, cioè mi sono accorto come i miei insegnanti per esempio non abbiano dato abbastanza peso all'autostima, per cui o ce la fai o non ce la fai. E con le nuove generazioni, diciamo, di allievi che ci sono adesso, invece è una cosa su cui molto bisogna puntare. Cioè, ancora prima che una solidità tecnica sullo strumento, che ovviamente è necessaria, però poi vedi magari allievi molto talentuosi che poi già magari grandicelli, 14-15 anni, salgono sul palcoscenico, occhio sbarrato, e non ce ne saltano in fuori. Allora sei costretto a fare anche tu, insomma, no? Un po' a costringerli a fare degli esercizi di autostima, che è un'autostima molto particolare comunque. Certo, ma Gioele, mi scusi, lei che esercizi di autostima consiglia ai suoi musicisti in erba? Allora, non è che, cioè, diciamo che la metodologia diciamo che io utilizzo per l'autostima è quella della, diciamo, di una visione oggettiva, sì, cioè di avere veramente la coscienza di che cosa sta succedendo, perché diciamo che nel nostro campo quando è che l'autostima va, diciamo, un po' vacilla, ecco, quando tu hai un tipo di percezione quando stai studiando, quando stai lavorando, e poi arrivi sul palcoscenico, ti capita la registrazione fatta dalla zia, sì, poi tu ti ascolti e dici: mamma mia, ma cos'è sta roba? Ma non posso essere io. No, capita, soprattutto gli allievi, che poi tu li costringi a riascoltarsi per capire l'errore, e loro lì sono nel panico perché non si riconoscono. Certo. Allora, diciamo che i esercizi di autostima sono, vabbè, oltre lo studio che deve essere sempre necessario, soprattutto questo, una coscienza, perché secondo me l'autostima arriva dalla coscienza. se uno ha coscienza, appunto, come dicevate voi, delle proprie potenzialità, ma soprattutto dei propri limiti, concentrerà la sua attenzione, diciamo, di studio sui propri limiti, aumentando automaticamente l'autostima. Io penso così. Gioele, vedo che Alberto Pellai annuiva. Sì, io parto proprio dall'osservazione di Gioele, che è il riconoscimento. È una parola chiave per modellare la propria autostima, e vi invito magari a fare questo esercizio in concreto. Cioè, bravo, immaginate di avere tre specchi davanti a voi. Uno specchio è quello che voi vi guardate dentro allo specchio. Cosa vedete? Come mi guardo? Potrebbe essere la domanda. Il secondo specchio invece lo sguardo degli altri che vi circondano. Come mi vedo guardato? Cioè, che percezione ho di ciò che lo sguardo degli altri restituiscono di me stesso. Il terzo specchio è come vorrei essere guardato. La persona che ha una buona autostima fondamentalmente riesce a sovrapporre le tre immagini, e quindi ha una buona coerenza tra come si vede, come si è visto e qual è il desiderio. Cioè, e in queste cose c'è proprio un'immagine reale. La persona che invece soffre sul proprio modello di autostima è una persona che non riesce ad allineare le tre immagini. E Gioele ci ha dato l'immagine del palco, che è fantastica, perché tu sali sul palco con un'aspettativa su te stessa, con una platea che sta aspettando e ti guarda e quindi è lì pronta, e contemporaneamente con cosa vorresti da te stesso su quel palco. E quella è una situazione sfidante. In ciascuno di noi vibra uno struggente desiderio di felicità. Ma è assurdo dire: finché non avrò quello che desidero, non sarò felice. Fai della tua vita un'opera d'arte oggi. Una bella frase di Anthony De Mello, che può essere considerato, no, il fondatore, il creatore del pensiero positivo, il sostenitore del pensiero positivo, che ci viene in soccorso. E è un aforisma particolarmente illuminante anche alla luce del libro che tu, Alberto, hai scritto insieme con Barbara Tamborini, lo ricordiamo, dove l'idea è proprio quella di trasformare le relazioni familiari in un'opera d'arte intitolata Autostima, appunto. Allora, qual è la funzione che le nostre relazioni familiari svolgono sulla nostra autostima, e cosa succede in famiglia all'autostima? Ma direi che la famiglia è proprio quel grosso specchio, primo grande specchio, che ti restituisce l'immagine di te stesso. Quindi tanto più quello sguardo è uno sguardo reale, che sa vedere ciò che realmente sei, tanto più tu riesci a costruire dentro di te l'immagine di te stesso perfettamente coincidente con i tuoi punti di forza e i tuoi punti di debolezza. Prova a immaginare se gli occhi che ti guardano di mamma e papà sono occhi che si aspettano sempre troppo da te rispetto a quello che sei. Immediatamente tu metti fuori fuoco l'immagine di te stesso. Senti ciò che sei, contemporaneamente senti un'aspettativa fortissima, ma è legata a ciò che non sei. L'insoddisfazione è terribile, e quello che un genitore molto esigente potrebbe pensare, questo però è uno stimolo fortissimo al miglioramento, diventa, in realtà diventa introiettare un giudizio, certo, fortissimo su di te come fortemente impotente e fortemente incapace. Io credo che sia importante anche per i genitori, soprattutto, provare a fare questo esercizio che tu hai consigliato, questo dei tre specchi, perché se noi abbiamo poca autostima, un'autostima vacillante, di cui, insomma, non siamo consapevoli dei nostri limiti, delle nostre forze, molto probabilmente trasmetteremo un'idea, coltiveremo un'autostima malata anche nei nostri figli. E l'altro aspetto è che noi continueremo a dare come predominante esclusivamente quello sguardo indagatore e giudicante degli altri, e non riusciamo ad avere il nostro sguardo su noi stessi. A volte questo succede anche in amore. Entriamo in coppie dove questa carenza di autostima ci rende totalmente dipendenti da quel pilota automatico che sta scritto nello sguardo giudicante della persona che ci mettiamo a fianco. Voi intanto provate a continuare a fare il gioco dei tre specchi. Intanto io vado rapidamente a Manuela da Bologna. Manuela, buongiorno. Grazie per l'opportunità, grazie mille. Ci racconti. Siete spettacolari. Niente, come anticipavo alla ragazza che mi ha risposto, la sostanza è questa: io ho avuto due genitori molto forti, ho due genitori molto forti. E con un'autostima direi proprio ai massimi livelli. Io sono sempre stata esattamente il contrario. Sì. Ma non è che abbiano avuto, in parte mi ha già risposto il dottor Pellai in questo momento, no? Non è che siano stati così esigenti, ecco, però io purtroppo ho sempre avuto queste lacune, quindi anni di psicoterapia, non riesco a smettere di fumare, mio padre mi dice, non ci vuole niente, io inizio e smetto quando mi pare, e così è. Io fortunato lui, Manuela. Esatto, di conflitti interiori molto forti, anche se... ho avuto una vita professionale molto brillante, mi hanno sempre visto come una persona fortissima, tutta di un pezzo, e in realtà ho delle fragilità. In quale degli specchi dovrebbe lavorare Alberto Manuela? Tanto per dare delle indicazioni prima dei mercati rapidissime? Probabilmente lo specchio è del come mi guardo, dare molta più potenza a quello specchio allo sguardo del come mi vedo vista. Manuela, primo specchio a partire da sinistra, quello del come mi guardo. Tanti consigli oggi per potenziare la nostra autostima, per riflettere almeno, perché non ci sono delle ricette che vanno bene per tutto. Facciamo andare un po' la testa. I nostri consigli quotidiani li trovate anche sul Daily Lab, il laboratorio del benessere, dove ogni giorno gli esperti ci aiutano a prenderci cura della nostra salute e del nostro benessere. Basta andare sul sito di Radio 24, www.radio24, e cliccare sul Daily Lab. Essere benessere. In fondo oggi stiamo giocando al gioco dei tre specchi, Alberto? Abbiamo preso spunto dal libro che Alberto Pellai ha scritto con Barbara Tamborini, QAF. I tre specchi sono come mi vedo, come mi vedono gli altri, come vorrei essere visto. Lavoriamo quindi sul nostro concetto di autostima. 800 24 00 24, per tre di voi la possibilità di ricevere a casa il libro di cui stiamo parlando oggi. Abbiamo Silvia che ci chiama da Torino. Buongiorno Silvia, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Io parto la mia testimonianza come insegnante. Sì. Faccio l'insegnante di sostegno in una scuola superiore. Avendo due ragazzi portatori di handicap nella classe, io ho 18 ore in quella classe, quindi tutto il mio orario. Sì. E quindi oltre ad aiutare i ragazzi con disabilità, mi accorgo come gli altri abbiano bisogno di un lavoro educativo, nel senso che io li ascolto, li spingo a studiare, sì, faccio quella parte che magari l'insegnante curricolare, che è impegnata appunto nella spiegazione, non riesce a fare. Sì. E quindi mi chiedo però come gli insegnanti possano anche lavorare sull'autostima dei ragazzi, e vorrebbe magari in alcuni casi Alberto potrebbe aiutarli ad avere anche un profitto scolastico. Certo, quello dell'insegnante è uno sguardo davvero potente. Provate a ripensare a quanto alcuni insegnanti vi hanno davvero migliorato la vita, a quanto invece altri... Sono stati determinanti, nel bene o nel male? O nel male, bene, esatto. Dentro allo sguardo che vi ha fatto bene c'è il segreto che rende l'insegnante un potente promotore di autostima. E allora continuiamo a provare a misurare la nostra autostima, e anche il modello di autostima che stiamo coltivando negli altri. Viene immediato pensare ai nostri figli, ma anche alle persone che lavorano con noi. Paolo da Brescia ci scrive: sto ascoltando la vostra trasmissione e cercavo di dare una risposta alla definizione di autostima. Credo che la risposta corretta sia il piacersi come si è, accettando i propri limiti e superare anche gli errori fatti, insomma essere in grado di perdonarci, perché dentro di noi sappiamo di valere molto. Sono un peso per me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata grande senza neanche accorgermene, e ora sono qui che mi guardo crescere, la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze. Ed eccola qui Noemi con una delle canzoni più belle di quest'anno, e tra l'altro assolutamente in tema con il nostro programma di oggi dedicato all'autostima. Noemi, ciao! Buongiorno! Ma come sei brava a proposito di coltivare l'autostima? Ah, beh, oddio, io devo dire la verità che l'autostima è una, diciamo, è un argomento particolare per me, perché sono sempre stata molto timida e quando ero piccola, anzi, ero molto chiusa e facevo difficoltà ad accettare, no? Ma credo che sia normale, insomma. E invece adesso, insomma, secondo me l'autostima è riuscire a esprimere se stessi e al 100%, sempre, certo, i filtri nella vita, insomma, servono, ma servono più per rispettare l'altro. Però l'autostima, secondo me, è lasciarsi andare e esprimere se stessi al 100%. Noemi, in questa canzone Vuoto a perdere, effettivamente tu dai un messaggio fortissimo alle ragazze e alle donne, tra l'altro sono tue grandi fans. Cosa ti hanno scritto dopo aver sentito questo testo molto particolare? Si sono riconosciute? Beh, molte donne sì, molte donne mi fermano, anche le signore che abitano per esempio nel mio palazzo mi fermano, mi hanno fermato dicendomi: ah, ma quella canzone è perfetta, ma allora l'avete cantata, l'avete scritta per me. E, insomma, il testo è di Vasco. Di Vasco. E devo dire che lui è stato bravissimo a usare la metafora, no, della cellulite, che poi che è quella che esce più fuori da tutta la canzone, sia per attirare l'attenzione ma anche per farci capire che i nostri difetti definiscono chi siamo, e quindi eliminarli sarebbe come eliminare delle parti fondamentali della nostra personalità, del nostro modo di essere. Ecco, secondo me è bella per questa la canzone Vuota a perdere, perché fa dei difetti un qualcosa a cui non possiamo rinunciare, qualcosa che definiscono noi stessi. Qual è il difetto che più ti definisce, Noemi? Sono testardissima, c'ho un carattere. sono molto difficile, devo dire, specialmente poi quando si tratta di musica, ma quando si tratta di scelte che riguardano me. E l'unico che mi riesce a gestire è mio papà, che riesce sempre a consigliarmi in maniera giusta, ma è l'unico che riesce a entrare nella mia psicologia per farmi capire quando sto andando a 200 all'ora contro un muro, ecco. Noemi, tu in questo momento sei in tournée, sarai il 29 giugno a Sesto San Giovanni, il 1 luglio alla Notte Rosa di Rimini, il 7 luglio al Cortile della Pilota di Parma, ma ci siamo domandati, una timida come te, pure così testarda, quando sale sul palco, quindi vede se stessa, viene vista dagli altri, spera di essere vista in un certo modo, che cosa impara? Come il palco trasforma quello che sei e come la tua autostima diventa visibile sul palco mentre fai un concerto? Ma io credo che dipenda dal fatto che sul palco mi sono sempre divertita, nel senso che io ho iniziato quando andavo col piano bar a cantare con mio papà, oppure con la mia band, ed ho imparato che sul palco, sapendo quello che devo fare, a me piace cantare e sapendo che la gente lo apprezza, e riesco veramente, boh, forse a tirare fuori una grande energia, perché magari sfrutto anche l'energia che mi arriva dal pubblico, quando magari può succedere che cantino le mie canzoni. E il palco è un po' una lente di ingrandimento, ecco. Ecco, noi stiamo lavorando sui tre specchi, come ci ha insegnato Alberto Pellai. Il palco è uno specchione, è un grandissimo specchio. Infatti bisogna salire senza maschere sul palco. Ecco, io prenderei proprio questo. Proviamo oggi a toglierci, anche solo temporaneamente, per qualche minuto, quella maschera che spesso ci mettiamo per supportare, no? Per nascondere le nostre fragilità. Che dici, Noemi? Beh, in questo periodo storico poi le maschere vanno molto di moda, no? Perché ecco, uno gira per strada e molte persone sono, no, sono molto vestite, cioè ci sono proprio dei gruppi di persone vestite simili, e secondo me, anzi, il vestito ha molto peso in questo secolo, e delle volte invece dovremmo un po' dimenticarcelo, ecco, più che altro. Sarebbe bello. Sarebbe bello, dai che ci proviamo. Noemi, ti aspetto qua presto e intanto ti ringrazio per essere stata con noi. Buon tutto! Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata Noemi, noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi torniamo qua insieme con le vostre telefonate per far scegliere una testimonianza, un racconto, una domanda, uno stimolo che dei tre di voi per ricevere a casa il libro di Alberto Pellai e Barbara Tamborini. A tra poco. Essere e benessere. La strada era sconnessa e scivolosa. Il piede mi è scivolato mandando l'altro piede fuori strada. Ma mi sono ripreso e mi sono detto: sono scivolato, non sono caduto. Abramo Lincoln. Certi uomini vedono le cose come sono e dicono: perché? Io sogno cose mai esistite e dico: perché no? George Bernard Shaw. Tre persone erano al lavoro in un cantiere edile. Avevano il medesimo compito, ma quando fu loro chiesto quale fosse il loro lavoro, le risposte furono diverse. «Spacco pietre», rispose il primo. «Mi guadagno da vivere», rispose il secondo. «Partecipo alla costruzione di una cattedrale», disse il terzo. Peter Schulz. Mi piace, e noi oggi ricostruiamo, puntelliamo la nostra autostima. In linea con noi abbiamo Franco, dalla provincia di Varese. Ben arrivato, Franco. Sì, grazie per l'intervento, siete interessanti come sempre. Allora, la domanda è questa, mi sono chiesto. A 60 anni, una persona con un'elasticità mentale, diciamo, un po' indurita dalla vita, dalle cose, dai condizionamenti, eccetera, può trarre beneficio da una terapia di questo tipo, lavorando su se stesso, oppure sarà un grande sforzo per andare avanti un centimetro? Intendo dire, siamo un po' come un treno sui binari oppure no? Grazie. Grazie Franco. Franco apre una finestra, un portone, perché quello che ci dice lui, partendo proprio dall'idea dei 60 anni, è che noi abbiamo dei momenti critici, dei passaggi critici nella nostra vita. Se lei ci pensa, lo stesso dubbio ce l'ha anche un adolescente quando si deve mettere in gioco e deve decidere qual è la vita che lo sta aspettando. I 60 anni sono una terza nascita, una nuova vita che sta per arrivare, e io la posso intendere solo come un breve percorso che mi deve accompagnare verso il momento finale, o come una nuova opportunità. 60 anni effettivamente posso diminuire il coinvolgimento sul lavoro, aprire gli spazi che riguardano più la dimensione della passione, posso fare del mio tempo libero molto di più quello che voglio, non ho più dei figli che sono una fatica da dover far crescere, ma possono diventare un piacere infinito di pura relazione. Per cui è un po' proprio come ce la raccontiamo. Se lei incornice i suoi 60 anni in una cornice piena di opportunità e dove c'è ancora molta luce, ecco, vale molto la pena investire da qui in avanti. E Antonio suggerisce: per aiutare l'autostima pongo piccoli obiettivi, così da poter arrivare a quelle grandi, passetto dopo passetto, morsetto dopo morsetto, come fa la formichina. Maria Teresa, buongiorno da Milano. Buongiorno, eccomi. Eccola. Io volevo espormi la mia esperienza. Ho 53 anni, da sempre ho subito una mamma molto dominante, con un carattere molto forte, che sia che per me che mia sorella ha avuto sempre molte critiche. Quindi io, nello specchio che nominava il dottore, mi vedo sempre piena di difetti, perché poi mi vedo come un po' mia mamma mi vedeva, cioè mi vedeva. In realtà noi abbiamo una vita normale, sia io che mia sorella, anche di successo. Io faccio promotore finanziario, quindi un'attività anche impegnativa, in cui mi sento anche bene, mi sento anche di aver raggiunto dei bei traguardi e tutto quanto. Il problema è come affrontarla ancora oggi, perché poi lei continua comunque in molte occasioni a picconare l'autostima di Maria Teresa, forse perché dietro questa apparente persona così forte, questa mamma tutta d'un pezzo, c'è una persona un po' fragile. E io in generale penso che le mamme e i papà sono proprio degli scultori della statua di ciò che noi siamo, ed effettivamente, per come si racconta Maria Teresa, io vedo questa mamma che continua a scolpire, ed è come se la statua di Maria Teresa è sempre un po' più piccola della statua della mamma. Quindi forse è davvero arrivato il momento, Maria Teresa, di indossare un nuovo paio di occhiali, un paio di occhiali che ingrandisce l'immagine di Maria Teresa e rimpicciolisce un po' quella della mamma, perché lei è diventata una donna completamente nuova e diversa rispetto alla donna che aveva in mente sua mamma. Lei è diventata se stessa e questo ha un grandissimo valore. Il primo passo che devi fare se vuoi essere una persona di successo è decidere che tipo di persona vuoi essere. Esistono tre tipi di persone: coloro che fanno accadere le cose, coloro che guardano accadere le cose e coloro che si meravigliano di ciò che accade. John M. Capozzi. Allora, mi piace anche questa frase di Capozzi, perché siamo quasi in chiusura di trasmissione, Alberto, e noi dobbiamo scegliere i tre nostri ascoltatori che, a cui far ricevere a casa il libro. Sono le 53:30. Rispetto a questo aforismo potremmo anche rilanciare i nostri ascoltatori: provate un po' a pensare che genere di persona siete voi, cosa per voi è meglio, far accadere le cose, guardarle accadere, meravigliarvi di ciò che sta accadendo. Probabilmente la cosa migliore è farle accadere le cose, vuol dire che abbiamo proprio in mano la nostra esistenza. Al tempo stesso non dobbiamo dimenticare quanto è meraviglioso farci stupire dalla vita, che se la sappiamo accogliere, se abbiamo la giusta attitudine, ci sa stupire. Rispetto agli ascoltatori che ci hanno chiamato, difficile scegliere, molto, però vai di autostima difficile. E la tua scelta è quella giusta, Alberto, ti faccio anche ma un io direi corso. Che Gioele, che è stato il violoncellista che ci ha chiamato, che è un insegnante, è probabilmente. Poi Silvia da Torino, anche lei insegnante, direi forse Maria Teresa, la nostra ultima ascoltatrice. Allora, noi terminiamo come abbiamo cominciato, con Bridget Jones, ma stavolta la situazione è notevolmente cambiata, così speriamo per voi, dopo i nostri consigli e le nostre parole di oggi. Buona autostima a tutti, da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai. Ci si chiede sempre cosa succederà dopo la parola fine. Maria, il capitano von Trapp, Biancaneve e i sette nani, Mark Darcy e Bridget Jones... Finalmente so che la mia storia avrà un lieto fine e niente al mondo me lo può rovinare. Essere e benessere.